Todd Power. That sounds worth listening. Sono le ore 10:44 di lunedì 23 maggio 2005. Martedì scorso 7.469.000 spettatori hanno visto, su Rai 1, Amanti e Segreti 2. Se siete uno di loro, avete sbagliato podcast. Pop Power è una guida settimanale su come usare internet per ascoltare qualcosa di più interessante di quello che propongono i media tradizionali. Anche oggi parliamo di cinema con la seconda parte dell'intervista ad Alberto Farina sul rapporto tra il cinema e i mezzi di informazione, una chiacchierata che ha dato buoni frutti, come vedremo al termine della trasmissione. Ma intanto ascoltiamolo. Ho visto cambiare molto, per dire, l'informazione cinematografica in Italia, perché ho cominciato a scribacchiare, diciamo, pseudo professionalmente, che risparmio le recensioni scritte sui quadernini, ma sono, diciamo, dall'inizio degli anni Ottanta a frequentare le case di distribuzione, eccetera, e ho visto come negli ultimi 5-6 anni gli uffici stampa si siano dovuti aprire proprio in maniera veramente quasi oscena ai giornalisti o aspiranti tali, che invece di essere espressione di una testata a stampa erano espressione di un sito internet. E ormai ci sono una quantità di siti molto professionali, e quindi a questo punto non è più neanche necessario, capito, dire ah beh, c'è la rivista. No, alla fine, se il sito è fatto bene, si può scroccare un pranzo. La casa di produzione ti fa vedere film gratis. Io ho dato a degli amici insomma, che dicevano ormai spendo talmente tanto per il cinema, il consiglio: fatti vivo, senti la casa di distribuzione, se tu hai un sito decente o riesci a collaborare con un sito appena decente, ti fanno entrare. Io non ci vado più perché mi sembra di scroccare la cosa, ne ho scroccate tante, e soprattutto non scrivendo adesso recensioni, andare a vedervi al crocco mi sembra così un po' un trucco. Però ho tanti amici che sull'onda di questa cosa invece ora si vedono tutti i film un mese prima di me. Ecco, l'apertura c'è. Prima che diventino dei trend setting, per usare un po' di inglese, sì, credo che ce ne passerà del tempo, perché ancora adesso si privilegia sulla carta stampata la televisione e su qualsiasi mezzo di diffusione tramite internet la carta stampata, perché il podcast riesca a entrare e arriva quarto, insomma, riesca a dimostrare di avere una quantità di spettatori tale un coefficiente di penetrazione. Sì, ecco, beh, questa è una bella espressione. Prima che si arrivi, bisognerà far sì che capiscano gli uffici stampa delle case di distribuzione che cos'è un podcast, che non è così immediato. No, infatti. Nel nostro paese, come del resto anche all'estero, l'informazione sul cinema indubbiamente è influenzata da una serie di fattori di distorsione, come ovviamente i sacrosanti sforzi promozionali, gli uffici stampa, le pubbliche relazioni, e poi addirittura ci sono i conflitti di interesse, cioè se la TV è di proprietà dello stesso editore o quantomeno del produttore dei film, come succede in tantissimi casi. Che fortuna non da noi, come sappiamo. Sì, no. Comunque, quello che ti chiedo è, da, diciamo, addetto ai lavori, quali sono le fonti di informazione in lingua italiana che qualcuno come te può usare per rimanere aggiornato, rimanendo per quanto possibile al riparo da questi elementi di distorsione? Ma guarda, in realtà io non ho delle fonti particolari, cioè credo di aver in questi, sono quasi 20 anni di pseudo professionale frequentazione della distribuzione cinematografica, eccetera, alla fine sviluppi un po' degli, non degli anticorpi, delle specie di filtri che ormai sono connaturati al tuo modo di leggere l'informazione cinematografica, per cui butti via immediatamente quel 90% di fuffa che c'è sempre. Il famoso filtro Mollica, per esempio. Per esempio, cioè, quando ti appare Mollica, vabbè, Mollica si autofiltra, cioè nel momento in cui ti parla bene di qualsiasi cosa, tu sai che, insomma, vabbè, deve fare la velina perché il TG1, non so se è TG1 o TG2, ha preso tot soldi per spingere quel film e basta lì. Però tutte le interviste, o il 90% delle interviste che vengono fatte a un autore di film mainstream, sto dicendo, sì. Quando, nell'imminenza dell'uscita del film, è quasi totalmente sempre roba da buttare, anche per gli intervistatori cinematografici credo che siano la peggior razza insomma, giornalistica, forse dopo quelli sportivi. Mi sono reso conto tante volte di essere a delle conferenze stampa con dei giornalisti che scrivevano su quotidiani molto più insomma, quotati dei settimanalini o mensilini su cui io mi dibattevo, che non avevano la minima idea. Cioè, mi ricordo una volta eravamo tutti quanti siamo stati messi su un pulmino per andare sul set di un film con Malcolm McDowell, insomma, interprete di Arancia Meccanica, prima di tutto di Arancia Meccanica, e mi sono reso conto che nessuno sapeva citare altri film di Malcolm McDowell a parte Arancia Meccanica. Forse qualcuno avrà visto Caligola. Ma tu ne sai uno di più che loro non sapevano. Mi ricordo che c'era Michele Anselmi, che invece è una persona seria, adesso scrive sul giornale, ma insomma è stata una persona seria, che era l'unico che effettivamente li conoscesse. Ci siamo messi a fare la gara e allora è tutto uno blu, è uno Caligola, siamo andati avanti, che l'uomo è venuto dall'impossibile, avanti, avanti, avanti, si faceva chi restava prima senza, e gli altri restavano a bocca aperta ed erano anche film che avevano visto, ma se li erano dimenticati. Per cui il giornalista cinematografico spesso veramente non ha la minima idea, fa sempre le stesse domande, le risposte sono quasi sempre le stesse, soprattutto se intervisti un regista o un attore americano. Ecco, capita che adesso ci siano quelli che vengono chiamati ormai anche in Italia i junket, cioè si fa venire il divo, i due o tre attori del filmone del momento, il regista, e si fanno interviste in batteria. L'attore sta lì veramente come una puttana in un bordello e si fa un'intervista ogni 7 minuti. Quando poi hai veramente un contatto importante, sei la televisione specializzata, forse ti danno 9 minuti, guarda che però soltanto a te. E allora in 7 minuti... il giornalista, anche se ha delle domande da fare, non ha tempo di farle. L'attore, poveretto, ripete a pappagallo sempre la stessa performance, per cui dice: è stato bellissimo lavorare con questa persona, mi sono preparato così per questo personaggio, è sempre tutto andato benissimo, salvo poi 5 anni dopo, 10 anni dopo, 20 anni dopo nell'autobiografia e scoprire che invece era stato un incubo. Però nel momento in cui il film sta uscendo ci sono talmente tanti soldi che tu contrattualmente non puoi dire niente. Certo, questo è un elemento di distorsione. Si può apparire su Pressbook. Allora il 90% degli articoli di cinema che appaiono nell'imminenza dell'uscita di un film sarebbe meglio farli basandoli sul press book, cioè sulle veline pubblicitarie che vengono date al giornalista. Non vengono fatte perché alla fine il giornalista vuole la soddisfazione, così di dire: io ho passato 5 minuti con Harrison Ford piuttosto che Vin Diesel, piuttosto che Angelina Jolie, ecco. Sì, tra l'altro, leggendo comunicato stampa, ma anche la marchetta, alla fine arrivi a un punto, se tu segui il cinema, che cominci a dire: no, ma allora se dicono così vuol dire cos'è. È un po' come quando ti dicono sugli annunci economici: locale da ristrutturare, e tu lo traduci immediatamente in devastato. Ecco, certo. Col cinema è un po' così, riesci alla fine un pochino a capire, che ne so, un film è stato annunciato e poi esce con 2 o 3 mesi di ritardo, allora forse ci sono stati dei problemi. Alla conferenza stampa di apertura il protagonista non è venuto, forse ci sono stati dei problemi, invece ti dicono che si è malato. Cioè, alla fine forse riesci un attimo a capire di più dal modo in cui le cose ti vengono proposte che dalle stesse cose che ti vengono proposte. Io uso soltanto questo, perché poi alla fine... Ecco, quindi tu non usi, cioè, facendo conto su questo tuo fiuto, alla fine non hai le tue fonti privilegiate e quindi neanche in lingua straniera si trova qualcosa di più... diciamo, qualche insight. Sicuramente si trova. Diciamo che mentre qualche anno fa c'erano diversi siti, per esempio uno abbastanza noto era questo Ain't It Cool News, che è abbastanza popolare tra i cinefili internettari, che per quello che riguarda il cinema americano aveva spesso anticipazioni anche di dietro le quinte, qualche spettaculares magari succoso. Però ho avuto l'impressione, e ti dico, non frequentandolo più di tanto, che sia stato molto risucchiato all'interno del sistema, cioè ormai anche queste voci un tempo pseudo dissidenti sono state poi imbrigliate, magari non da censure vere e proprie, ma dal cominciare a blandirle, perché poi le major americane sono bravissime, e non è che fanno, cioè fanno il loro mestiere. Allora ti cominciano a invitare magari all'anteprima facendoti capire che ti hanno fatto proprio un regalo perché guarda, tu sei veramente una persona seria. E allora sono cose che ti compromettono alla fine. Da ultimo vorrei chiederti qualcosa sui newsgroup. Da molti anni ormai sei il sindaco di Itarti Cinema, che è uno dei gruppi di discussione più popolari in Italia, indubbiamente uno degli esempi, a mio parere, poi chiaramente anche un po' opinabile, è uno degli esempi più riusciti di online community verticale. Quali sono, a tuo parere, le prospettive dei newsgroup in un processo evolutivo del web che tende comunque a una multimedialità sempre più spinta? Allora, credo che ci sia una differenza tra quello che penso io e quello che pensano gli esperti di internet. Perché io sono un appassionato di newsgroup e ti dicevo prima che mi piace la comunicazione testuale, per cui resto per adesso fedele a quello. Parlavo la settimana scorsa con qualche esperto di blog, si chiama Gabriele qualcosa, ha anche scritto un libro appena uscito, ma la maledizione, non mi ricordo il suo cognome. Faremo una ricerca. Ecco, o te lo mando in mail. Sì. E lui mi diceva che in realtà alcune delle cose che io detesto dei blog rispetto al newsgroup sono state superate o sono superabili, eccetera, eccetera. Il newsgroup ha un vantaggio, a mio parere, è che è totalmente incontrollato. È anche un suo svantaggio, ma per dire rispetto a un forum di discussione che sta però su un sito, che quindi la persona che ha quel sito può togliere in qualsiasi momento. O rispetto, vabbè, la chat non ne parliamo, la chat è proprio dispersione oppure veramente chiacchiera con una sola persona, ma non è. I newsgroup veramente sono accessibili a chiunque. Oddio, non parlo di quelli moderati, Itarti Cinema non è moderato, e infatti tu dici è un esempio felice di online community, sicuramente sì, almeno io ci sto bene, ci perdo ore della mia vita da 8 anni, però c'è una quantità di rumore di fondo immensa, ci sono, credo che 2/3 dei messaggi che vengono scritti non abbiano più niente a che fare col cinema, perché siccome la comunità si è venuta a creare, ormai si parla di politica, di ristoranti, di qualsiasi cosa, cioè è diventato un po' un meta newsgroup. Però, ecco, tornando al fatto che è accessibile a chiunque, senza filtri, io ci trovo, ecco, lì ci trovo delle chicche dietro le quinte, che magari qualcuno posta protetto dall'anonimato. Ci si trovano tutte le opinioni, se qualcuno scrive una cretinata magari c'è subito dopo un po' tipo come fosse Wikipedia qualcuno che lo va a ricorreggere. Cominciano a esserci anche quelli che osservano il newsgroup e vanno a piantar casino. Un po' di tempo fa un frequentatore di Itarti Cinema, che aveva osato in qualche sua recensione dire di non so quale film che il doppiaggio era fatto di merda, ha postato sullo stesso newsgroup un messaggio che diceva: sono stato contattato dalla signora Pinca Pallina della tal cooperativa di doppiatori che ha detto che mi fa causa se io dico queste cose, quindi rettifico. E ha tra l'altro spiritosamente rettificato, sottolineando ulteriormente che questo doppiaggio era fatto veramente di me. Per cui veramente fanne causa, cioè si dice che scrive qualcosa sul newsgroup, è molto improbabile che si possa realmente. Tanto più quando poi si esprimono opinioni, cioè io certo. La recensione, se non dico che una persona è un cretino, ma dico che il film è cretino, nessuno mi può assolutamente dire niente. Il confine è molto labile. Sì, il confine è labile, però ecco, lì c'è veramente la palestra per tutti, si va da analisi approfondite della tal scena del tal film, a invece quello che dice, oh, cos'è, devo andare al cinema, che me va a vedere, grosso con la mia ragazza, quindi è sangue, non posso vedere. C'è veramente, ce n'è per tutti, anche lì bisogna poi imparare a selezionare le fonti, leggere gli autori che ti sono più affini, certo. E filtrare gli altri, perché sennò davvero non fai altro tutto il giorno. Come ho anticipato, alla fine di questa lunga chiacchierata c'è stato uno sviluppo imprevedibile. Quasi per caso Alberto mi ha confessato di conservare nel suo polverosissimo solaio, interamente occupato da uno sterminato archivio di materiali sul cinema, una serie di registrazioni storiche. Si tratta di una decina di interviste a protagonisti del mondo del cinema, fra i quali figurano registi del calibro di Sergio Leone, Peter Weir e Giuseppe Tornatore. A quel punto ho sgranato gli occhi e gli ho proposto di pubblicare questo materiale audio sotto forma naturalmente di un nuovo podcast, che alla fine abbiamo deciso di chiamare, con poca fantasia, Il Solaio di Berto. La musica che sentite in sottofondo, Messer, dei Four Italian Pep Pills, è attualmente la più seria candidata a fare da sigla alla trasmissione. Va da sé che per potermi dedicare a questo nuovo progetto, stavolta nella semplice veste di producer, dovrò sospendere per qualche tempo la messa in linea di Podpower, ma non credo che sarà una pausa troppo lunga. Con questo si chiude il numero 6 di Podpower. Tutte le puntate di Podpower sono realizzate sotto licenza Creative Commons e sono consultabili sul sito podpower.splinder.com, dove troverete anche i link a tutti i media menzionati. La sigla di Podpower è Dig dei Noise Units. In sottofondo avete anche ascoltato The Medallion dei Seductive Tales. Per i vostri commenti e suggerimenti, sempre benvenuti, potete scrivere a antoniocontent@yahoo.it. Buoni ascolti e alla prossima!